Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. 16:33 minuti, Luca Tremolada. Oggi ascolteremo la voce di Milano, anzi il suono di Milano, no, il rumore di Milano. Un progetto si chiama AudioScan, abbiamo un sound designer che ci racconterà come ha captato questi rumori di questa grande città, ma prima le news. Guerra ai cloni, anzi ai clonatori. I carabinieri di Roma hanno arrestato 23 persone con l'accusa di associazione per delinquere transnazionale, finalizzata alla contraffazione di carte di credito, accesso abusivo a sistema informatico, truffe online, ricettazione e falsificazione di documenti di identità. Nell'operazione, che è ancora in corso in tutta Italia, sono state realizzate centinaia di perquisizioni, spiega una nota dell'arma, aggiungendo che secondo gli investigatori la banda, composta da esperti informatici, quasi tutti italiani, avrebbe da tempo stretto alleanze con organizzazioni di hacker russi ed era guidata da un ex collaboratore di giustizia. Il PC è vivo e lotta insieme a noi. Un piccolo balzo in avanti, anno su anno, del 14,2% per il mercato dei PC in Italia. Nel primo trimestre 2010 i personal computer venduti sfiorano i 2 milioni e il 52% sono Acer e Hewlett Packard. In Europa l'incremento è del 19,4% per circa 18 milioni di pezzi. Lo scenario emerge dalla rilevazione Gartner. Secondo gli analisti, il settore ha saputo reagire in modo molto positivo, trainato dal segmento consumer. Sempre secondo Gartner, quest'anno i videogiochi per cellulare genereranno un giro d'affari di oltre 5,6 miliardi di dollari a livello globale, il 19% in più rispetto ai 4,7 miliardi del 2009. Italiani e consumer tech, stereotipi confermati. Gli uomini adorano la tecnologia che consente loro di essere attivi e indipendenti ovunque. Le donne preferiscono un approccio empirico. Secondo un'indagine condotta da Added Value per eBay.it, sono 21 milioni gli italiani che conservano oggetti tecnologici che non usano più. Nel 53% dei casi sono ancora funzionanti. Rivenduti consentirebbero un guadagno medio di circa 160 euro. Ma nessuno li vuole rivendere, nel senso che ma chi butter, cioè chi si mette a rivendere il telefonino? Cioè è una follia. Io ho il primo iPod, quello bianco. E mai lo venderei. Neanche morto. Esatto. Chi vi sta parlando è Giorgio San Cristoforo, sound designer, è l'autore, come si può dire, il progettista, no? Sì, l'autore. L'autore di AudioScan. Sentiamo nella scheda di che si tratta. Prendiamo una città, Milano, e proviamo ad ascoltarla nella sua interezza. Milioni di automezzi e macchinari in caotico movimento, è il ritmo della nostra attività sulla Terra. AudioScan l'ha fatto, ha ascoltato. È nato un progetto artistico ideato da Giorgio San Cristoforo e prodotto da Agon. Consiste in un'installazione multimediale interattiva e in una performance live, entrambe basate sulla mappatura sonora di Milano. 1580 registrazioni e rilevazioni fonometriche nelle vie e nelle piazze all'interno del perimetro della circonvallazione esterna. Per noi, dichiarano ad Agon, questo oceano di suoni indesiderati è per lo più solo rumore. Un paesaggio sonoro al di fuori del nostro controllo che facciamo fatica a sanare, ma di cui non si può fare a meno, perché è l'autocarro che trasporta il nostro cibo, è il tram che ci porta al lavoro, è il cantiere che costruisce le nostre case. È il suono della contemporaneità. Allora, leggo 50 ore di registrazione, 1580 strade e piazze, evidentemente monitorate e registrate, milioni di automezzi e di persone. Insomma, che cosa ti ha spinto ad ascoltare una città che è antipatica anche nel suono che emette? Una passeggiata per Milano una mattina. Durante un pranzo ero in Corso Buenos Aires e desideravo fare un lavoro legato al field recording, che è la registrazione in esterni. E mi sono chiesto che cosa potevo utilizzare, cosa potevo registrare. Mi sono guardato attorno, ero circondato da un oceano di suoni, al che mi è venuta la malsana idea di registrare i suoni di tutta Milano. Tanto, siccome il pubblico di questa trasmissione, insomma, ama un po' le tecnologie, com'è che hai registrato la città? Beh, grazie al cielo non l'ho fatto da solo, se no sarei ancora lì. Abbiamo avuto un team di 6 studenti dell'IM, dell'Università di Milano, e siamo scesi in campo con dei registratori portatili di ottima qualità, stereo, digitali, e abbiamo campionato, cioè registrato il suono tra le 8 e le 10 del mattino, tutti i giorni feriali, per 3 mesi. E in tutte le parti della città? Sì, sì, dentro la circonvallazione esterna, tutte le vie. Proviamo a sentire un breve estratto di Via Monterosa. Via Monterosa, qua da voi. A che ora, tra l'altro? Sempre fra le 8 e le 10. Giustamente mi ricordavano Via Monterosa perché è un omaggio a Radio 24, visto che è anche la sede della radio. Comunque sembra vento. Sì, nel senso, sì. Sembrano folate di vento che arrivano e che vanno. Poi ovviamente le registrazioni cambiano a seconda della zona dove sono state registrate. Ci sono vie molto più rumorose, soprattutto le strade urbane in discorrimento. Poi ci sono i parchi, ci sono i mercati, ci sono le chiese, le campane. C'è un paesaggio sonoro. Ecco, l'insieme che cos'è? Qualcosa che infastidisce, qualcosa che urta, qualcosa che... È un po' tutto insieme, perché esiste un rumore nocivo, che è quello ovviamente che ci sveglia la mattina alle 6, magari è l'AMSA che ti tira giù dal letto, e poi c'è comunque un l'AMSA rumore... spieghiamo per tutti gli ascoltatori, la nettezza urbana di Milano, sì, che ha il cuore di usare delle macchine molto silenziose, che sono amate infatti da tutti i milanesi, perché poi passano alle 7 del mattino, di solito anche il sabato e la domenica, però questo è un dettaglio. E poi c'è anche un rumore invece necessario, che è quello che dipinge la nostra società, ed è un rumore benevolo, come può essere il vociare delle persone nei mercati, oppure il suono delle campane delle chiese, o i tram che sferragliano sui navigli, insomma dei suoni che riconosciamo come nostri. Ecco, allora voi avete questo bagaglio di suoni milanesi, diciamo, e che cosa ne volete fare? E quello che abbiamo fatto, AudioScan a 2 output, un'installazione adesso che presentiamo a Palazzo Reale dal 20 al 30 esattamente, maggio, che è sostanzialmente una mappa interattiva dove l'utente può ascoltare i suoni di tutta la città, e poi anche un concerto che faremo il 27 maggio all'inaugurazione di Audiovisiva alle 21 in via Piranesi al Palazzo del Ghiaccio. Che però è un concerto che non sarà un concerto di via Monterosa. No, esattamente. Non è musica concreta, per dirla in termini tecnici, ovvero non abbiamo utilizzato il rumore to cure. Quello che abbiamo fatto è stato scrivere dei software e trasformare per 7 mesi questi suoni, questi rumori, in strumenti musicali. Proviamo a sentirne un piccolo estratto. Sì. Vediamo un po' che forma hanno. Tutto fatto con il rumore, ogni cosa, percussioni, bassi, archi. Abbiamo creato ogni suono manipolando il rumore con dei software nuovi che abbiamo scritto noi. Che avete programmato voi, quindi? Sì, io in particolare. Quindi tu, tra le altre cose, scrivi anche software, sì, ed è questo un aspetto che ci interessa assai, anche perché parte di questi file tu li hai scaricati da un sito che forse non tutti conoscono. Ah, intendi dire quello che abbiamo ascoltato adesso è stato messo, diciamo, come sample da ascoltare su questo sito che si chiama SoundCloud, che è una specie di YouTube del suono, molto bello, molto interessante, si possono ascoltare file in alta risoluzione. Ecco, quindi noi scriviamo scriveremo, tra l'altro daremo l'indirizzo del sito anche su Novalab24 Twitter e sulla pagina di Facebook di Novalab24. L'altro, insomma, tema che volevo alzare, anche perché tutte le volte che abbiamo provato ad ascoltare e registrare rumori, inevitabilmente ci poniamo il tema delle mappe, cioè di dove collocarli, perché in radio si fa, è abbastanza semplice dire, ma via Monterosa, per un milanese sa che quel rumore proviene da quella zona ben definita. Adesso con internet, insomma, uno dei giochi, dei tricchi più interessanti è la geolocalizzazione, cioè ossia la possibilità di posizionare il suono, le foto, un'immagine, anche un video in una mappa nell'esatta localizzazione. Per cui, non so, chi conosce Google Maps sa benissimo che andando a Milano o andando a Roma io ho tutte le foto delle persone che hanno scattato delle foto di Milano e di Roma e le posso cliccare e posso andare a capire esattamente che cosa succede in quel punto. Finora non si era fatto nulla sul suono. Sì, e poi soprattutto già è stato fatto qualcosa, ma non diciamo con una coerenza scientifica come è stata applicata invece per Audioscan, con dei giorni particolari, degli orari particolari su tutto il territorio, diciamo, di Milano. Indubbiamente la geolocalizzazione è un aspetto che ci interessa. Ne parlavo con Simone Tosoni, che è sociologo dell'Università Cattolica di Milano, che ha contribuito al nostro libro, che esce per Post Media Books. Quando? Esce a fine mese. Okay. Esce a fine mese, contiene anche il CD. E indubbiamente il fattore geolocalizzazione è molto interessante, è parte di questa nuova realtà aumentata di cui si continua, sì, a sentir parlare. Anche perché si può immaginare di raccontare, almeno questo è anche un mio piccolo trip, cioè di immaginare una città raccontata nelle sue varie epoche, nel suo tempo, attraverso i suoi rumori. Cioè è evidente che oggi Milano ha un rumore ben preciso, perché il traffico ha anche una certa importanza. Chissà che tra 10 anni magari riescono a limitare. Sarà sicuramente sarà diverso. Sarà diverso. I paesaggi sonori cambiano radicalmente. Ad esempio, due anni fa sono stato a Tokyo e il paesaggio sonoro di Tokyo è radicalmente diverso da quello di Milano, così come New York, Parigi. Ogni città ha la sua impronta sonora. Voce. Sì, ha la sua impronta sonora, esattamente. Nova Lab 24. 16:46, Nova Lab 24, siamo in compagnia di Giorgio San Cristoforo, del sound designer, che ci ha raccontato il progetto Audioscan e che, insomma, a questo punto, visto che ha mappato il suono, il rumore di Milano, vogliamo capire il prossimo passo qual è. Il prossimo step è un lavoro fatto con le stesse tecnologie, però non più in una città, ma bensì in un'acciaieria. Per il Rec Festival di Reggio Emilia, che si tiene fra ottobre e novembre, andiamo alle acciaierie di Rubiera, un posto incredibile, a registrare l'audio e anche a filmare. Stiamo preparando un film. Ma non è un po' troppo, cioè l'acciaieria mi sembra una cosa da rivoluzione post-industriale, no? Sì. Sicuramente, più che rivoluzione post-industriale fa molto costruttivismo russo, ma è bellissimo, ha dei suoni, ha un panorama sonoro incredibile e tra l'altro, se mi permetti, è un piccolo anche omaggio al lavoro di Luigi Nono, che fece La fabbrica illuminata. Insomma, ci siamo anche ricordati dei nostri genitori. Giustamente. Adesso proviamo a voltare pagina, però resta con noi anche se hai qualche cosa da dire su questo tema, perché cambiamo non radicalmente pagina, non andiamo da Arturo Di Corinto in collegamento da Roma, aspettiamo un attimino visto che è caduta la comunicazione, allora torniamo ancora da te visto che abbiamo ancora qualche minuto, e la cosa che volevo capire è che cosa ne pensi di tutto quel filone di suoni della natura che ha un po', da un certo punto di vista, nauseato, nel senso il mare, il parco con la pina che passa, cioè di fatto negli ultimi 5 anni i suoni, i rumori sono entrati nei nostri hi-fi, sono entrati con degli intenti più che altro pedagogici o quantomeno degli intenti di massaggiare la psiche, ecco. Effettivamente, probabilmente tutto l'interesse che c'è nel field recording, in particolare appunto degli ambienti naturali che ricordano un po' l'estetica New Age, è il sintomo di un'esigenza. Alla fine noi siamo vessati continuamente dal rumore cittadino e indubbiamente molte persone sentono l'esigenza di avere un panorama sonoro intorno a sé più benevolo, meno... Quindi meno non ci trovi nulla di male, solo io l'ho vissuta. No, esteticamente ovviamente può essere discutibile da un punto di vista artistico, anche perché non si può continuare a fare sempre le stesse cose. Voglio dire, già questi esperimenti erano stati fatti negli anni 60 e 70 e ancora prima negli anni 50. Però non discuto, c'è gente che può avere bisogno anche di questo, perché no? Mentre adesso ci possiamo collegare con Roma, con Arturo Di Colinto. Il 21 di questo mese, venerdì, insomma, una grande manifestazione. Che cosa succede a Roma? Ciao Luca. Buongiorno. A Roma succede che un popolo multicolore si ritroverà per protestare contro il decreto di legge sulle intercettazioni che è appena passato in Commissione Giustizia al Senato. Tutti davanti al Parlamento, dove sarà allestito uno speaker's corner per una maratona oratoria durante la quale i partecipanti potranno esprimere il loro punto di vista su questo disegno di legge. Ecco, ricordiamo che Arturo Di Colinto, giornalista, ricercatore universitario, scrive sulle pagine di Nova 24, del Sole 24 Ore, insomma è anche il nostro orecchio per capire quello che sono le declinazioni di questo disegno di legge, anzi di questa legge ormai, no? Beh sì, insomma questa deve andare al Senato, poi alla Camera per l'approvazione definitiva. Quindi ci sono ancora degli step. Sì, purtroppo i margini per cambiarla sono ridottissimi, perché sembra che per la maggioranza di governo sia un disegno di legge non modificabile, nonostante l'ostruzionismo delle opposizioni o il tentativo di capire delle opposizioni. Ecco, Di Colinto, noi chiaramente ci poniamo il tema per capire quali sono i riflessi di questa legge sui blogger e su questa galassia. Allo stato attuale che cosa si è capito? Beh, che c'è un articolo, che è l'articolo 28 di questa legge, che impone l'obbligo di rettifica anche ai gestori di siti informatici e quindi anche ai blog o a chi gestisce un newsgroup, anche per i social network potrebbe valere, perché la definizione contenuta nell'articolo di trasmissioni informatiche e telematiche relativamente all'informazione amatoriale, insomma, comprende tutta la galassia della comunicazione digitale. Obbligo di rettifica significa che entro 48 ore, secondo il comma, chiunque pubblichi una notizia e venga richiesta una rettifica deve fare questo cambiamento, deve rettificare appunto la notizia iniziale con la stessa evidenza, con la stessa forma grafica, con le stesse modalità di accesso dell'informazione originale, e quindi è chiaro che è una cosa assai difficile da realizzare per tutte le piattaforme di open publishing, per i motivi che sappiamo, insomma. La pena qual è? La pena è una multa pari a 25 milioni delle vecchie lire, perché ecco. Quindi 12.500 euro, perché la norma ripesca la vecchia norma dell'obbligo di rettifica che vale per la stampa dalla legge del 1948. Quindi c'è qui un'equivalenza che secondo me è assai sbagliata, cioè ritenere che un blog debba avere la stessa responsabilità di una testata editoriale regolarmente registrata che fa parte di un meccanismo industriale che ha una redazione professionale. Ecco, detto questo, facciamo salvo il fatto che in ogni caso un blog deve essere trasparente e deve in ogni caso non deve compiere un atto di diffamazione, nel senso, questo è un dato che al mio parere è fondamentale per guardare a questo tema. Io sono molto d'accordo con quello che dici. Comunque, per quanto riguarda la diffamazione, ci sono già altri dispositivi di legge che la consentano, certo. Anzi, C'è un disegno di legge che sta facendo ancora il suo iter, che è il disegno di legge Pecorella Costa, presentato già 2 anni fa, che arriverà a conclusione. Comunque noi promettiamo, insomma, di seguire questa vicenda, cerchiamo di capire che cosa succede in rete, quali sono le, i riflessi, le ripercussioni. Intanto ringraziamo Arturo Di Colinto perché il nostro tempo è scaduto, ringrazio anche Giorgio San Cristoforo, ricordo a Palazzo Reale la mostra dal 20 al 30 maggio. Esatto. E poi il concerto quando è? È il 27 maggio alle 21 a Palazzo del Ghiaccio. La trasmissione è finita, noi ci sentiamo domani alle 16.30, arrivederci. Nova Lab 24. Nova Lab 24.